La stanza del nonno parte da qui. Aspettiamo il finale del brano e... Partenza, ben arrivati a tutti. Siete a bordo? Siete a bordo anche dei nostri taxi, a quanto so. Cooperativa Samarcanda, che ci ospita anche. Buono come inizio, eh? Miles Davis. Lui aveva detto che la musica avrebbe preso questa direzione. Noi abbiamo pensato, bah, è impazzito. E invece... A multi-talented and gifted musician who can play any position. It's no mystery that you're no risk to me, 'cause I'm the love until your girl to throw a kiss to me and hop in bed and have a fight with the pillow. Turn off the lights and let the J give it to you, and let the trumpet blow as I kick this, 'cause rapping is fundamental and mild sounds so wicked. A little taste of the bebop sound with the backdrop of doo-hop, and this is why we call it the doo-bop, the doo-bop. Stiamo cercando di diventare speciali, di essere quelli che mandano la musica più stramba. Ma presto in questo periodo storico. You think you bad, but somebody seen you climbing a tree like Jack B. Nimble, your mouth blow the trumpet off of A&M. Miles Davis' style is different, you can describe it as specific. He ripped rage and roll no top watching Andy Griffith. You can Molto più probabile trovare musica di altro tipo in giro, ma dipende dal vostro stato d'animo, dal vostro mood. Quella lì? No. Just digging that dubop sound. Per esempio, qualche giorno fa abbiamo trasmesso una canzone che non aveva mai sentito nessuno, ma non perché così, perché il disco è uscito ma poi non fu distribuito per una serie di motivi. E questa canzone e questo disco, tra l'altro, e questo artista che canta è piaciuto moltissimo, al punto che qualcuno mi ha richiesto la possibilità di poter comprare il disco. Intanto io posso dirgli che invece hai ancora la possibilità di riascoltarlo, ma dalla stanza del nonno. Sergio Lucchetti, da un album che si chiama La Luna, un album che potrebbe essere uscito stamattina. C'è una festa nella testa e una folla di pensieri canta le canzoni, le emozioni che arrivano spedite dal cuore. Faccio tardi e non ritorno a casa perché mi manca qualcosa, non è che sei tu, che non ci sei più. E faccio finta di pensare, ho bisogno di te, come Milano del mare, ho bisogno di te. Corri il tempo come un lampo per dimenticare, la ricorsa diventa una morsa sulla giugulare. La tua voce che dice mi spiace non mi puoi salvare, e allora resto solo e canto per non mendicare, per non sprofondare più. Ricordi che canta, è un'impresa nell'attesa. Trascorro le notti a fumare, cambio amici e cambierò la casa, perché mi serve una scusa, non è che sei tu, che non ci sei più. Ti scorderò ma non so come, ho bisogno di te, come ogni cosa di un nome, ho bisogno di te. Corri tempo come un lampo per dimenticare, la rincorsa diventa una morsa sulla giugulare. La tua voce che dice mi spiace non mi puoi salvare, e allora resto solo e canto per non mendicare, per non sprofondare più. Resto solo e canto, Sergio Lucchetti, da un album che si chiama La Luna, un disco che abbiamo quasi solo esclusivamente noi. Ho bisogno di te come Milano del mare, ho bisogno di te. Corri tempo come un lampo per dimenticare, la rincorsa diventa una morsa sulla giugulare. La tua voce che dice mi spiace non mi puoi salvare, e allora resto solo e canto. E allora resto solo e canto. Amici, cambierò la casa, non è che sei tu, che non ci sei più. E allora resta solo e canto. E allora resta solo e canto. Perché mi manca qualcosa, non è che sei tu, che non ci sei più. Lucchetti, da un album che si chiama La Luna, un album uscito praticamente 2 minuti fa, e quindi noi l'abbiamo subito avuto e ve lo facciamo ascoltare in anteprima. Il bello della musica è che se qualcuno passa e ti dice mai sentito questa cosa, dico no, non l'ho mai sentita. Vuoi sentirla? Sì, perché? Perché? Passamelo, mandamelo, sentiamo. E allora si fanno delle scoperte. Pills to help anxiety. What you need. I would take the mess you leave. Chord Over Street. I could give you what you need. Temporary fix for the storm at the end of the night. Calling out my name, but it sounds like you're reading a line. I don't really care, I could drown in the waves that you cause. First, it kind of feels like it's real when you string me along. There's pills to help anxiety. I would take the mess you leave if I could give you what you need. I'd gladly give you what you need. Holding you tight on a high while I wait for the bomb. Tie my heart to the train tracks just to get off. Say you gotta go like I don't know, nothing's changed. I could pee and beg like a dog here, but you never stay. I could take the lungs and sleep. There's pills to help anxiety. Una volta la cosa meravigliosa nell'essere una radio libera appena nata era che ti potevano ascoltare in tutto il quartiere. Adesso che siamo una radio libera ma sul web, ti possono ascoltare in tutto il mondo. E allora ci è arrivato un messaggio, non immaginate da dove, dalla Louisiana. Adesso in questo momento io in geografia, dove sta la Louisiana? Che punto è della carta geografica? Avranno il ragù in Louisiana? Forse no, forse il ragù non ce l'hanno, però posso farglielo assaporare. Era partita male? La faccio ripartire. Ragù, sempre da questo splendido album di Sergio Lucchetti. L'album si chiama La Luna. Ragù, scritta in compagnia con un amico. Mi piace la tua pelle, mi fa vedere le stelle, ma quello che mi piace più di te è quell'indingolo che sai far tu, che volgarmente chiamano ragù, che va l'odore fin giù per le scale e ti fa stare con il naso su. Ehi. Mi piacciono i tuoi baci, le passeggiate in bici, e specie la domenica perché tornando a casa mentre salgo su, sento l'odore, ti dirò di più. Ti amo certo anche per altre cose, ma soprattutto per il tuo ragù. Ha qualcosa quella crema rossa che si posa sulla pasta e che diventa rosa come il sole quando sorge ad est. Nell'attesa come un gatto io faccio le fusa, come quando al buio un po' indecisa ti allontani ma so che mi vuoi. Come fai non si sa, forse tu il ragù ce l'hai nel DNA, forse tu il ragù ce l'hai nel DNA. Sei buona come il pane, le pance rosse piene, sirena che mi canti col menù. Sai quando farmi una carezza in più, che cosa dire se mi sento giù. Tu di ogni cosa sai la giusta dose e ne ho la prova con il tuo ragù. Sì. la teglia in terra cotta, lui dentro che borbotta, di fatto sembra quasi un basso su. Vedo il magone che mi sale su, se la domenica mi affaccio giù, vedo i vicini che tutti sudati sono lì a far vento sotto il barbecue. Ha qualcosa quella crema rossa che si posa sulla pasta, che diventa rosa come il sole quando sorge ad est. Nell'attesa come un gatto io faccio refusa, come quando al buio poi indecisa ti allontani ma so che mi vuoi. Come fai non si sa, forse tu il ragù ce l'hai nel DNA, forse tu il ragù ce l'hai nel DNA. Che si posa sulla pasta, che diventa rosa come il sole quando sorge ad est. Nell'attesa come un gatto io faccio refusa, come quando al buio poi indecisa ti allontani ma so che mi vuoi. Come fai non si sa, forse tu il ragù ce l'hai nel DNA, forse tu il ragù ce l'hai nel DNA. E il segreto della mia felicità è che tu il ragù ce l'hai nel DNA. Mi piace la tua pelle, mi fa vedere le stelle. Mi piacciono i tuoi baci, le passeggiate in bici. Sei buona come pane, le guance rosse piene. La teglia in terra cotta, dentro che borbotta. Sergio Lucchetti, Ragù. Un disco che abbiamo quasi solo noi e non sarà facile trovarlo. Ma non è uscito da molto, è praticamente è così. Ma al piano c'era un signore che, se non sbaglio, si chiama Ludovisi di cognome, no? Che è anche un bravissimo produttore, perché la musica italiana ha tante sfaccettature, non sono soltanto canzoncini e canzonacce. Questo, per esempio, è un album di un certo Edoardo Nordio, con tutto un gruppo di musicisti, prodotto l'anno scorso, credo. A loro piace fare la fusion, lui suona il basso e il pezzo si chiama, come l'album, Fusion Steps. We'll be right back. Steps. Edoardo Nordio, insieme a un gruppo straordinario, dopo tanti anni che uno fa il musicista, finalmente riesce a incidere un disco. Ed è uscito fuori questo, e ne sta uscendo fuori un altro. Steps, Edoardo Nordio con il suo primo album, sta uscendo il secondo, è pronto, sta per essere promosso, tra poco arriverà anche da noi e forse anche Edoardo a presentarcelo. Però questi nomi non mi giungono nuovi, sembrano nomi di doppiatori, Edoardo Nordio, Sergio Lucchetti. Boh, ma sarà che anche i doppiatori fanno la musica? Non lo so. Dunque, io volevo rendervi partecipi di una scoperta che ho fatto l'altro giorno. Si fanno delle scoperte musicali, no? Ogni tanto, gironzolando qua e là. E quando fai una scoperta musicale, praticamente quel disco che hai scoperto è come se tu l'avessi immaginato ora, cioè che ti fosse arrivato ora, quindi è una novità assoluta per te. Però sentite anche che musica c'è dentro. È scritto Succotash, forse si leggerà Succotash. Il signore che suona il pianoforte con altri quattro è Herbie Hancock. Giuro, un disco che non avevo mai sentito. Lo scopro adesso con voi. Thank you. Michael Chambers al basso, Willy Bobo, Chihuahua Martinez. Si è soffiato nel microfono, Martinez, scusate. Invention and Dimension, Herbie Hancock. Radio Centro Idea. Grandissimo, stupendo questo album di Herbie Hancock che non avevo mai ascoltato prima. Sei su Radio Centro Idea e... Ah, siete fermati per me, grazie. No, vi ringrazio. Un altro quartetto straordinario. Medeschi Martin. Joe Schofield. Medeschi, Schofield, Martin and Wood. altri giocatori musicali, con Hammond, chitarra e altri aggeggi elettronici. Il brano si chiama Tutti, ma it's a big fine thing. Tutti ma. A big fine thing. Radio Centro Idea Digital Network. Stavo in PC, Stavo prendendo una fotta. La zeppola. Quelli che ci stanno ascoltando, so che c'è un gruppo gremito laggiù in quel lungo garage colorato. Lo so, vi sento. E poi dall'altra parte del mondo, cioè incredibile, Louisiana. Abbiamo avuto degli ascolti pazzeschi in questa settimana. Stiamo salendo su come dei Rocket Man. No, proprio Rocket. Come dei Rocket, senza il Man, perché il Man andrebbe a fuoco. Questo sound vi consenta di fare le cose che dovete fare con un minimo di brio. C'è sempre qualche altra nuova scoperta che ho fatto ultimamente. Sì, il fatto di rimettermi a fare radio mi ha riaperto un mondo a 360 gradi. Sto curiosando dappertutto, sto cercando musica dappertutto e mi imbatto in cose delle quali probabilmente non mi sarei mai soffermato, che mi piacciono. Per esempio, conoscete una che si chiama Julia Jacqueline? O Julia Jacqueline, chissà come si chiamerà. Lei è in Australia e fa questo sound qui. Mm-hmm. Pressure to Party. Pressure to Party. Sono sotto pressione perché ti mandavo una festa. Credo, eh? Una traduzione spaghettosa. Sempre molto piacere conoscere delle nuove leve musicali. E Julia Jacqueline è quella che abbiamo ascoltato adesso, e anche questa è Julia Jacqueline o Jacqueline. Il brano è di diversa atmosfera e si chiama Don't Know How to Keep Loving You. Più che how era how, vabbè. I wanna stay like this, I wanna feel it all. Every time that we kiss, I want your mother to stay friends with mine. I want this feeling to pass in. Esattamente il brano che ha acceso la mia curiosità verso quest'artista. Non so, saranno state le sonorità dei bassi. La produzione è molto importante. nel 2016 con un album, gironzola nella zona di Melbourne, Julia Jacqueline, o Julia Jacqueline, chissà come si dirà, boh, bisognerebbe chiederglielo. Into the darkness. Adesso la chiamo. Or is it the light? Should I be waking up or finding a place to sleep tonight? Who will I be? Now that you're no longer next to me, don't know how to keep loving you. Keep Loving You, molto simpatica, anche musicalmente simpatica, ci piace, insomma, qualcosa ci non ci disturba la sua musica, anzi ci incuriosisce, eh? Bello il sound. Siete su Radio Centro Idea Digital Network, questo ormai lo sapete. Powered by Samarkand 06 5551. Siamo DAB e siamo online. Allora, che cosa succede? Succede che abbiamo un recapito dove potete fare le vostre dediche. Non è vero, sto scherzando. Che è il 3791. Ed è scritto 3791 880 880. Potete lasciare dei messaggi, anche degli insulti, ma insomma sempre con un certo garbo. E poi dovete raccontare ai vostri amici che avete scoperto una radio che tutto sommato vi piace, se vi piace, e che dove la trovo? La trova sul web, su internet praticamente, dal telefonino, dal computer, dal tablet, digitando radiocentroidea.com. Dice, però quando vado in macchina che faccio? Se hai un'automobile recente e c'è installata una delle nuove radio, c'è il canale C10 e lo trovi su MDAB e ci puoi sentire per tutta Roma, e bene, perché senti che bel segnale abbiamo e che bella musica che mandiamo in onda. E anche se esci da Roma, cioè se vai verso in provincia. Ma da qualche giorno siamo ancora più trovabili. Per esempio, se voi avete un aggeggio a casa di quelli che si chiamano per nome, no? Giuseppa, mettimi Radio Centro Idea. Come fa un mio amico. E che forse ci sta ascoltando. Non ti offendere, Lu. Ebbene, l'apparecchiatura è in grado di trovarci e di permettervi di ascoltarci. Dico bene, Riccardo? Un saluto a Riccardo Mameli, che si è preso una piccola pausa, ma tornerà presto a ricoprire questo spazio che si chiama Lo smorzà, abbassa. Tratto immagino da qualche battuta. Io tornerò in onda con voi lunedì verso le ore 18, dalle 18 alle 20, con la stanza del nonno. E oggi siamo insieme e è passata solamente un'ora? Incredibile. Non me ne sono minimamente accorto. Mi è sembrato che avessimo sentito tantissima musica. Sono soltanto le 16:54. Beh, bellissimo. Pomeriggio è un momento curioso, no? Per la radio. Certo, probabilmente questo programma voi lo riascolterete di notte. Anzi, un saluto a tutti quelli che ci riascolteranno di notte, perché poi questi programmi probabilmente diventano dei podcast, cioè la nostra radio proverà a farveli riascoltare se voi non potete esserci in questo momento in diretta. Anche questa è una cosa dalla quale ci siamo liberati, questa necessità di essere sempre in diretta, comunque e dovunque, a testimoniare, a rappresentare, a sapere. Spesso la tempestività non è completa di notizie e quindi è un sapere così. Siamo lì, ma non sappiamo nulla. E una volta le dirette si facevano un po' registrate, un po' come facciamo noi, no? Ben costruite, cioè, no? Senza gravi perdite di tempo come certe dirette che durano 4-5 giorni. E poi il pomeriggio, bella questa musica. Ah, guardate, e questo è Buck Clayton, un trombettista che suonava con Duke Ellington, che aveva registrato alcune cose per i 78 giri, e questi nastri sono stati ritrovati, sono stati rimasterizzati, è stata tolta tutta quell'equalizzazione che era necessaria per poter essere stampati su dei 78 giri, su dei vinili. E i brani sono stati restituiti al loro splendore, molto belli. Infatti penso che spesso userò questo brano di Buck Clayton come sigla, perché mi piace parlarci sopra e mi piace ascoltarlo così, presentarmi. Siamo su Radio Centro Idea, io sono Edith, al microfono con voi è Enrico Di Troia, naturalmente. Siamo su Radio Centro Idea, powered by Samarcanda, siamo in dub e siamo online. Lo sapete? Basta? Una canzone d'amore? Sul serio? Leggera? Pesante? Basta che sia d'amore. Eh sì, è il periodo. Every night she walks right in my dreams. Since I met her from the start, I'm so proud I am the special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine, because the doggone girl is mine. I don't understand the way you think, saying that she's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time. Because she's mine. The doggone girl is mine. Paul McCartney. Don't waste your time. Michael Jackson. Dietro i bottoni, Quincy Jones. I love you more. She tell you I'm the one for her, 'cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time, because the doggone girl is mine. She's mine. She's mine. No, no, no, she's mine. The girl is mine. The girl is mine. The girl is mine. The girl is mine. The girl is mine. Mine, mine. Yep, she's mine. Mine, mine. The girl is mine. Mine, mine. Yes, she's mine. Mine, mine. Don't waste your time, because the doggone girl is mine. Michael, we're not going to fight about this, okay? Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter. I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she said she couldn't love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe. Michael Jackson e il Beatles, come si chiamava? Non mi viene in mente. Ma anche noi in Italia non è che siamo da meno. Come mai mi è andato via il nome del cantante? Michael Jackson e Paul McCartney. Mamma mia. Ogni tanto la testa fa così. Dicevo, anche noi in Italia abbiamo musicisti in grado di comporre delle canzoni a questo livello. E siccome siamo su un disco che stiamo per scoprire, siamo sempre nel disco di Sergio Lucchetti che si chiama La Luna, un'altra canzone, un altro brano straordinariamente arrangiato, si chiama Dentro. Che rimane di quel sapore, che rimane di quel colore, di quegli occhi così lontani, resta almeno fino a domani. Non la senti la voce, ma ti respiro e mi piace. Strada lunga, strada di mare, vento forte, case deserte. Nel mio sogno ti vorrò aspettare, lascerò tutte le porte aperte. Non la senti la voce, ma ti respiro e mi piace. E tu sei dentro. Sapessi quanto mi sei entrata dentro. Quando mi sbatti in faccia quel tuo amore, quei tuoi occhi, che poi lo vedi se mi tocchi. Non riesco più ad andare, perché sei dentro. Sorriso che mi sei caduto dentro. Come una stella in fiamme che precipita sul mare, tu guarda me, fatti guardare, io sono come te. Thank you. che sei dentro, sorriso che mi sei caduto dentro, come una stella in fiamme che precipita sul mare. Tu guarda me, fatti guardare, io sono come te. Che rimane di quel sapore, che rimane di quel colore, di quegli occhi così lontani, resta almeno fino a domani. E ora la senti la voce che in un sospiro ti dice: ti prego, dormi bene. Straordinario Sergio Lucchetti in una canzone che si chiama Dentro, da questo album che si chiama La Luna. E adesso un altro romantico. Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Oh! Things I found out through hard times and good, I wrote them all out in ink and blood, dug deep in my soul and signed my name true and sent it. Posso dire che ho sbagliato canzone? Posso dirlo? Succede quando non hai un disco in mano. E allora, se voi mi permettete, mi scuso con coloro a cui piace Bruce Springsteen in queste fogge, ma diciamo che la canzone che io volevo farvi ascoltare era esattamente questa. Big black train coming down the track, blow your whistle long and long. One minute you're here, next minute you're gone. I lay my penny down on the rails, the summer wind sings its last song. One minute you're here, next minute you're gone. Baby, baby, baby, I'm so alone. Baby, baby, baby, I'm coming home. autumn carnival on the edge of town. We walk down the midway arm in arm. One minute you're here, next minute you're gone. I thought I knew just who I was and what I'd do, but I was wrong. One minute you're here, next minute you're gone. Great river running along the edge of town, on muddy banks I lay my body down, this body down. Footsteps crackling on the gravel road, stars vanish in the sky as black as stone. One minute you're here, next minute you're gone. One minute you're here, next minute you're gone. One minute you're here. Boss, io ho capito perché lo chiamano il boss, perché quando è dal vivo dà tutto, tutto quello che ha, non si risparmia minimamente. È per quello che è il boss, non puoi fare a meno di ascoltarlo. Questa è stata una delle penultime opere fatte in studio e non era per niente male. I gotta get away from here. There's nothing here for me anymore. Just some memories. Get them if I could. Sweet Revenge era l'album. Volevo rassicurare i nostri amici che stanno ascoltandoci dal sito che leggerete altri titoli in passare mentre siamo in onda, in diretta in questo momento, perché stiamo sperimentando il nostro secondo canale. Sicuramente non verrà mai varato, però intanto vediamo se tutto funziona. Quindi i titoli che state leggendo sono del nostro contemporaneo secondo canale. Some tapes, my Walkman, a book to read, my old photographs and locket, a blank book so that I can keep track, and someday I'll consider coming back. can't sleep at night, oh no. I'm not sleeping at all. I guess I miss the security, your kiss, and how you used to sing to me so sweet. Give everybody my love. I decided to tough it out, giving up, I'll never go that route. Not me, I have faith in my dreams. Qualcuno ha detto: ma ci stai prendendo in giro, non è vero che vedo un secondo canale. No, ve lo faccio sentire, guardate, sentite, sentite. Ma in onda esattamente quello che avete letto, ma in onda esattamente il titolo che avete letto, per cui tell everyone I said, tutta verità. And when I get some money, I'll come see you, okay? Bene, Sakamoto di Radio Centro Idea Digital Network, Enrico al microfono con voi. Qualche tempo fa c'era un gruppetto che se n'era uscito con delle cose piuttosto interessanti e addirittura sembrava anche politicamente scorrette, per esempio. E a noi quelli politicamente scorretti un po' ci piacciono, e sì, dipende, dipende. Però in questo caso il gruppetto era interessante, si chiamavano i Frankie Goes to Hollywood, erano diventati famosissimi con un brano sessualmente esplicito, si chiamava Relax. Ricordate il video di questo brano? Due maschere nella ring, due maschere famose di presidenti. Frankie Goes to Hollywood, Two Tribe. E adesso una cosa che a noi piaceva molto una volta. Vediamo se ci piace ancora. Mm-hmm. on your right. Crosses are green, the crosses are blue. Your friends didn't make it through. Out of the night and out of the dark, into the fire and into the fight. Well, that's the way the heroes go. Cracking mother earth, blazing heart, the molten rock spills out over the land. And the love is the lover who licks your boots away. You don't want to mourn as well, but the better start the dance. Do you want to dance? Genesis, Trick or the Tale, ormai la storia la conosciamo tutti. Peter se ne andò e loro fecero un disco cercando un cantante che poteva sostituirlo, e invece si scoprì, anzi decisero, che il cantante più giusto era Phil Collins. E non fecero un errore, perché da lì in poi il gruppo, dopo un piccolo tentennamento, cambiò completamente genere, cambiò completamente modo di fare musica e diventarono famosi per un altro tipo di gente. Cambiarono generazione, un po' come fa Battisti, no? Che praticamente qualsiasi generazione lo ascolta, lo comincia ad apprezzare. Ma c'è un chitarrista che bussa alla porta che vorrei farvi ascoltare. Chitarrista straordinario, uno bianco, uno di colore, Gary Clark Jr. Dal vivo è straordinario, perché comincia a cantare una canzone, sembra che sta cantando un blues e finirà col blues, poi in braccio alla chitarra comincia un assolo pazzesco e non puoi fare altro che seguirlo con la testa come uno stupido. Ecco, sta cominciando. all you get. That's all you get now, baby. That's all you get. Just me and this guitar, baby. That's all you get. Won't be no apology. This ain't no fairy tale. Ain't got no excuses, baby. I'm doing my deal. I don't know you a thing, baby. I don't know you a thing. I don't know you a thing no more. I don't know you a thing. Junior. Don't owe you a thing. Tang, praticamente la traduzione sarebbe quella. Gary Clark Jr. Sto cercando di farvi conoscere delle cose che ho scoperto anche io in questi ultimi anni che sono mancato dalla radio. Che tornando in radio hai la voglia, la volontà, il desiderio di condividere con le persone che ritrovi all'ascolto musica che praticamente hai scoperto in questo periodo. Che comunque pensavi che sarebbe stata mandata in onda su tutte le radio che si ascoltano sull'FM in giro. Ho paura che durante il giorno non sia così. Adesso non puoi stare fermo con Gary Clark. Anche quando sei dal vivo, lo stai ascoltando e fa 40 gradi al sole. Perché a Londra quell'anno faceva almeno 40 gradi. Fiumi di birra che volavano di qua e di là. Vabbè, vi ho fatto scatenare, forse avete sudato un po' troppo. E allora un minimo di calma, va, un blues piuttosto rilassante. È un blues che io uso di solito per leggere delle cose alla radio, sì, mi piace leggere dei testi. E in questo caso una volta ho letto, e lo farò probabilmente se me ne lascerete lo spazio, il tempo e se vorrete ascoltare, vi leggerò una cosa di una certa autrice che si chiama Agota Christoph, che scrive delle cose folli, un po' come di questo film che c'è in questo periodo che si chiama Povere creature, no? Folli. Però vi lascio solo immaginare come si può fare solo alla radio. Per ora, un attimo di relax, del grande blues, Steve Ray Vaughan, Radio Centro Idea, Edit. stay very long. Yeah, hey, hey. Isle is the roughest place I've ever been. Lo so, vi state chiedendo dove siete capitati. Questa è Radio Centro Idea Digital Network, la radio che non c'era. Non c'era, ve lo assicuro, non c'era. Provate a fare un giro dappertutto, non ce n'è una uguale. Non che siamo perfetti, Non siamo perfetti, ma... Cerchiamo disperatamente di diffondere piacere, soprattutto, prima di tutto, per noi, e quindi speriamo anche per voi. Ray Vaughan. Some game. su Radio Centro Idea. What I Do, Donald Fagen insieme agli Steely Dan, o una parte di essi. Siamo ospiti di Samarcanda, siamo powered by Samarcanda. 065551, i taxi da provare. Provateli. 065551. Siamo in dub e siamo online. E online significa in tutto il mondo. Che bello. Piano piano bisogna farci conoscere, no? Dire agli amici che c'è qualcuno che sta facendo la radio in un modo che ti ricordi di tanti anni fa. E infatti è successo che la nostra, così, il nostro grafico di gratitudine, di, come si dice, di preferenze, come si dice? Vabbè, insomma, si è alzato il grafico, siamo stati ascoltatissimi in questi giorni, quindi di questo ci fa molto piacere e vi ringraziamo, perché ognuno di voi, se è contento di stare con noi, ci aiuta a diventare sempre più diffusi. E dunque c'è una cosa che dovevo fare adesso con un attrezzo a cassette, vediamo un po' se può funzionare. Dunque, sì. No, non è questa. Qualcosa non va, strano. Strawberries on a swing. Every moment was so precious. I'm still kicking. I'm daydreaming on a strawberry swing. The entire all the world is at its end. Just in case, and that a bomb comes falling on my lawn, I should say, and you should hear, I've loved. I've loved the good times, yeah. I've loved the good times, yeah. Say hello, then say farewell to the places you know. Times here, spaceships are lifting off of a dying world. Millions are left behind while the sky burns. There wasn't room for you and I, only you. Goodbye, goodbye. Frank Frank Ocean, un brano piuttosto moscetto per il mio gusto. Si chiama Strawberry Swing. Era molto carino l'effetto della cassetta avanti e indietro all'inizio, credevo che poi sfociasse in un brano un pochino più interessante. Invece no, questo brano è una palla mortale. Dunque, no, vabbè, non volevo offendere nessuno, però voglio dire... c'è il mio amico Sergio Lucchetti, per esempio, che anche se fa una cosa molto così, un po' meno e sempre un po' più, no? No, ve lo faccio sentire, non ci credete? Eccolo qua. Vediamo un po'. No, non è lui, è lui, è lui, è lui. Ecco, vado ad aprire, eh? Un momento. L'inquilina del terzo piano, non la sento e mi sembra bene. È che questo disco suona talmente bene alla radio che mi fa piacere ascoltare altri brani. Non succede spesso, però quando vale, vale. Sergio Lucchetti, l'inquilina del terzo piano a Radio Centro Idea. Qui nessuno sa chi è, se lavora come vive. C'è chi dice che è cieca, chi un'attrice fa le prove. L'inquilina del terzo piano non ha neanche una televisione per sapere cosa sono la volgarità e la maleducazione. Lo sai che mi piace il caffè solamente la sera. Potessi parlare con te, vederti una volta sola. Dai, ci provassero a ballare proprio qui sulla pista del mio cuore. E poi fare un salto e poi volare fino a su al confine con il sole. Ma dove sei? Ora dove sei? L'inquilina del terzo piano è un altro amore intrappolato in coda con dolore, la faccia sulla strada. L'inquilina del terzo piano, le tentazioni come malattie, la fanno stare in piedi tutta la notte a strappare le sue fotografie. Lo sai che mi piace il caffè solamente la sera. Potessi parlare con te, vederti una volta sola. Dai, ci trovassero a ballare proprio qui sulla pista del mio cuore. E poi fare un salto e poi volare fin lassù al confine con il sole. Ma dove sei? Ora dove sei? Sergio Lucchetti, oggi 15 febbraio 2024. L'inquilina del terzo piano, le 17.52. Mi sembra bello, siamo soli, più soli. Però canta le mie canzoni, allora è chiaro che ha capito tutto. Dal terzo piano fa cadere i miei versi stonati e sporchi di rossetto. Dai, ci provassero a ballare proprio qui sulla pista del mio cuore. E poi fare un salto e poi volare fin lassù al confine con il sole. Ma dove sei? Dove sei ora? Dove sei? Prima ho detto la data di questo giorno, ma l'ho detta per un motivo molto semplice, perché il giorno dopo, cioè il 16 di febbraio, è successa una cosa meravigliosa nella mia vita, quello che succede a tante persone, a tanti papà, a tanti neopapà. Qualche tempo fa, ecco che lo studio si riempie. Sergio Lucchetti, l'inquilino del terzo piano, Radio Centro Idea Digital Network. E cosa mettere dopo Sergio? È difficile, perché ci vuole un musicista serio da mettere dopo, eh sì, perché qui il sound è straordinario, la musica è pazzesca, cioè la produzione è alta, per cui mettiamo qualcosa di minore, eh? Stevie Wonder, Superstitions, senza la S. Si riempie, c'è Bianca Crocetta che arriverà tra poco, sta preparando le sue carte. Io intanto ne approfitto, perché più ci mette lei a preparare le carte, io più posso continuare, no? Vero, vero Chiara? Bianca. Tu sei Bianca, oh mamma mia. Bianca. Vabbè, è la prima volta che la vedo di persona, quindi posso anche sbagliarmi il nome, no? Non è vero? Sbaglio anche questo? Annaggia, proprio memoria a zero, eh? Superstition, e vi lascio con questo brano. Ormai il compleanno di Phil Collins è passato, quindi insomma, soltanto per dirvi arrivederci. Edith vi saluta, vi ringrazia per essere stati un paio d'ore con me. Spero che siate stati bene, io sono stato abbastanza bene, avrei voluto fare altre scelte, però non le ho trovate. A volte i dischi non si trovano, si nascondono. E allora eccola qua, devi accontentarti di qualcosa che va altrove. Easy Lover! Un bacio, un abbraccio a tutti, grazie per averci fatto aumentare il gradimento degli ascolti in questa settimana, siamo andati proprio alle stelle, in alto, in alto, in alto, e grazie a tutti, e continuate ad ascoltarci e tra poco sarete con una nostra amica e vi ha già detto più o meno di cosa parlerete. A tra poco, ciao!